get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, bentornate, ben sintonizzate, anzi spero che per voi siamo noi oggi ad essere le bentornate. Già, perché questa trasmissione segna il nostro rientro e la ripresa dei nostri consueti appuntamenti radiofonici del martedì. Infatti cominciamo di nuovo a farci reciprocamente compagnia dopo la pausa estiva e, contrattempi permettendo, resteremo insieme fino all'estate prossima. Ci saranno tanti appuntamenti, tante notizie, tante considerazioni e tanta voglia di stare insieme, e questi sono sicuramente gli ingredienti giusti per far diventare questo spazio un luogo veramente nostro e da costruire insieme. Il CD della musica di sottofondo non parte, non riesco a capire perché. Comunque, vabbè, cercherò di andare avanti. Anzi, piano, gli piace il CD. Va bene, comunque, non ci interessa. Dunque, qualche dato tecnico ve lo devo dare per non perdere le buone abitudini. Allora, quella che state ascoltando è la nostra 147esima trasmissione. Io sono Caterina e faccio parte del gruppo separatista Coordinamento Lesbiche Romane. Vi ricordo che potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure potete inviarci un SMS al numero 338 41 46 682. Io in realtà sto solo cercando di perdere un po' di tempo per mettervi una musica di sottofondo, perché quello non parte, quindi abbiate un attimo di pazienza, vediamo se questo gli piace di più. Allora vi ripeto un attimo il numero del cellulare, che è 338 41 46 682, dove potete mandarci i vostri messaggini che ci piacciono tanto, insomma. Allora, se volete contattarci al di fuori di questa fascia oraria, potete farlo chiamando il mercoledì sera a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201, e questo è il telefono che noi abbiamo nella nostra sede di via della Lungara, praticamente alla sede all'interno della Casa Internazionale della Donna. E vi ripeto anche questo telefono qui, perché è anche un fax: 06 68 64 201. Bene, disperatamente sto cercando di aggiustare il CD, non si sente, va bene comunque. Allora, vi parleremo oggi della tre giorni di teatro lesbico, vi faremo un piccolo resoconto di questa iniziativa da noi organizzata il 17, 18 e 19 settembre scorso, e poi come ultima cosa abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio ad una cantante che si è spenta da poco e che per molte di noi è stata una vera e propria icona lesbica. Stiamo parlando di Juni Russo, e quindi abbiamo deciso, per farle omaggio, che tutte le nostre pause musicali avranno la sua meravigliosa voce. E allora sembra che il CD si sia deciso, ascoltiamo una dei brani che l'hanno resa famosa al grande pubblico, il titolo è Adrenalina. Non gli piace neanche questo, lo devo passare sull'altro CD, la vedo dura oggi con un CD soltanto, abbiate un attimo di pazienza. Del resto l'avevamo detto, no? Che contrattempi a parte. Va bene, queste tecnologie sono troppo avanzate per il mio sistema nervoso. Allora, mi scuso con tutte coloro che hanno già mandato 4 messaggi, non ho avuto il tempo di leggerli, mi riprometto di farlo quanto prima. Allora, il CD che avevo portato con le musiche di sottofondo non gli è piaciuto, ho dovuto utilizzarne un altro di Giuni Russo, vorrà dire che anche la nostra musica di sottofondo avrà la stupenda voce di Giuni Russo. Allora, come vi avevo preannunciato, vi parlerò dell'iniziativa di Teatro Lesbico Quando il Teatro si Tinge di Viola, che si è svolto il 17, il 18 e il 19 settembre nel cortile della Casa Internazionale delle Donne. Per le serate del 17 e del 19 erano state organizzate delle cene di autofinanziamento allestite e preparate da noi. Con il ricavato di queste cene abbiamo potuto saldare tutte le spese che abbiamo dovuto affrontare nell'organizzazione di questo evento. Noi teniamo sempre a ringraziare tutti coloro che partecipano alle nostre cene, perché questo ci permette di poter organizzare sempre nuove iniziative. Bene, quindi torniamo alla rassegna Quando il teatro si tinge di viola. Allora, il 17 settembre alle 21:30 è stato rappresentato lo spettacolo L'annuncio di Elena Rossi con Laura Verga. Questo spettacolo noi lo avevamo visto diversi anni fa al Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria di Bologna e lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze riproporre a Roma perché lo troviamo veramente delizioso e ci è dispiaciuto veramente tantissimo che gli agenti atmosferici non abbiano permesso a molte donne di poterlo vedere. Infatti quella sera ha piovuto quasi ininterrottamente per tutta la serata. Questo ci ha costrette a lasciare in fretta e furia il giardino e riallestire tutto all'interno della sala del centro separatista. Il brutto tempo e lo spostamento imprevisto della sede hanno notevolmente limitato la possibilità di visione. Alla fine c'erano insomma una quarantina di donne che hanno saputo però dare il calore e il riconoscimento a questo spettacolo che tanto meritava. Ma di che cosa parla l'annuncio? Dunque, è la storia di una lesbica che decide di mettere uno strano annuncio per ritrovare qualcosa a lei molto caro. Non si parla di oggetti, non si parla di animali, perché quello che la protagonista vorrebbe proprio ritrovare non è altri che se stessa. Una serie di vicissitudini hanno fatto sì che la stessa si perdesse di vista e nello svolgersi del racconto si susseguono diversi episodi che le sono accadute, diverse scenette di vita vissuta nelle quali si affrontano molti dei consueti modi di fare, di dire, di vedere le cose che ormai le lesbiche adottano. Si passa dalla relazione a due, alla relazione amicale, alle risposte delle amiche in caso di separazione, ai luoghi comuni che solitamente ci accompagnano e via dicendo. Il tutto viene rivisitato con ironica amarezza ed esilarante chiarezza. Elena Rossi scrive molto bene e l'attrice Laura Verga, che ha rappresentato il suo monologo, è stata altrettanto brava. Però il finale non ve lo diciamo perché in cuor nostro speriamo tanto di poterlo replicare. Chissà, magari con un pochettino più di fortuna meteorologica. Allora, sono riuscita a leggere qualche messaggio. Certo che siamo contenti anche noi della liberazione delle due Simone, figuriamoci, cioè è una cosa che ci ha fatto alleggerire il cuore. La pace sicuramente ha diritto di esistenza. L'altro messaggio ci chiedeva perché ci definiamo separatiste. Beh, dirlo in due parole è un po' complicato. L'unica risposta che mi viene adesso è perché lo siamo. Ma Ma torniamo al resoconto sempre della Tre Giorni, passando a sabato 18. Lo spettacolo della nostra Tre Giorni è stato inserito nell'ambito della Notte Bianca di Roma e quindi nella serata del 18 è stato rappresentato Sogno di una notte d'estate con Intermezzo lesbico di e con Eleonora Dall'Ovo. In questo spettacolo si mette in evidenza quanto precari siano gli spazi che le realtà gay e lesbiche gestiscono. Nella storia, infatti, si parla di un locale, un bar per l'esattezza, costretto a chiudere perché il perbenismo e l'ottusità degli abitanti del vicinato impazzano. Ma si sottolinea quanto lo sfruttamento di questa ignoranza permetta ai politici di turno di esternare e manifestare il loro più bieco sentimento omofobico. La barista, infatti, racconta come si sono svolte le sequenze che hanno portato alla chiusura, in sostanza alla censura, di uno spazio così poco tollerato e mal sopportato da chi, trincerandosi dietro una facciata di normalità, rivendica l'esclusiva di esistenza. Sulla scena poi è stato rappresentato anche un fantomatico ingresso nel locale di due coppie eterosessuali, coppie che decidono di entrare soltanto per soddisfare una anomala curiosità. E andare nel perdida, muero perché non muero, sino a ti misma perder. E questa è la parte più divertente, perché se da una parte vengono evidenziati i luoghi comuni che hanno spinto le coppie eterosessuali ad entrare, dall'altra c'è la fantasia ricorrente nel mondo gay che risulta paradossalmente speculare a quella solitamente ripetuta ad ogni donna lesbica e ad ogni uomo gay che, ritmicamente, si sentono ripetere: ma se sei così è soltanto perché non hai incontrato la persona giusta. E allora ecco che la barista, per vendicarsi un po' delle richieste tipo «ma come fate voi lesbiche se non avete gli attrezzi giusti?» o «io sì che sono un vero uomo, mica come te, femminuccia». Per vendicarsi, la barista versa un po' della sua pozione magica. Pozione magica chiaramente di omoerotismo nelle bevande degli ignari avventori eterosessuali. Da quel momento in poi succede di tutto, eh sì, perché anche loro quattro in realtà erano eterosessuali perché non avevano incontrato la persona giusta. Alla fine sempre di due coppie si trattava, ma come dire, assortite in maniera leggermente diversa. Nell'anima. La storia continua con la presidente dell'associazione che rimprovera la barista per ciò che ha combinato. Le ordina quindi di rimettere le cose a posto, perché certamente a nessuno farebbe piacere di essere costretto, suo malgrado, a vivere una sessualità non sua. Perciò, anche se con un po' di malavoglia, la barista propina agli sventurati avventori la contropozione che elimina l'effetto della precedente, ma... straordinariamente rimane tutto come prima. E lo spettacolo finisce qui. In fondo, forse, era proprio questo il sogno di una notte d'estate. Amore intenso, intenso, un amore intenso in te, è un amore intenso in te. Ho letto anche l'altro messaggio che ci è arrivato, ci arriva dalla nostra giovane Lella di Catania, che ci scrive anche se non riesce a sentirci, perché ci ha comunicato che il sito di Radio Onda Rossa non è attivo, per cui anche collegandosi non riesce a sentire la nostra trasmissione. Alla prossima canzone andrò a vedere che sta succedendo e chiederò spiegazioni. Io mi auguro che comunque questa, se di problema tecnico si tratta, si risolva quanto prima, anche perché, ripeto, noi siamo ascoltate tramite internet un po' da tutta Italia, e ci farebbe piacere che comunque continuassero a poterci ascoltare. Allora, passiamo a domenica 19 settembre, quando alle 21:30 e per la prima volta a Roma si sono esibite Talente allo scoperto. Questo spettacolo è stato curato da Fuori Campo, che è un gruppo lesbico separatista di Bologna, e si sono esibite alcune delle donne che hanno seguito un corso di teatro organizzato dal gruppo bolognese. Ognuna di loro ha rappresentato il risultato finale del corso dando vita a diverse scenette comiche e non. Sotto i riflettori del nostro teatro lesbico all'aperto sono finite Isabel Ciolbi ed Enrica Capanni in 100 di questi giorni, simpatica parodia un po' irreale e altamente ottimistica di due arzille lesbiche ultraottantenni che se la spassano alla grande tra feste, scorribande goliardiche e cenette intime con acchiappanza inclusa. E poi è stato il turno di Gina Van Est con In Controllo, nel quale si è affrontato l'amaro e crudele approccio con il proprio corpo dopo un intervento chirurgico di mastectomia. Quanta sofferenza e quanto sbandamento un episodio del genere possa provocare in una donna è stato ben rappresentato in questo assolo drammatico. Per finire si è esibita Monica Nobile con il monologo dal titolo Risveglio, nel quale la protagonista della scenetta non era una semplice signora come all'inizio si poteva credere. Quella che parlava di problemi intimi era in realtà la parte più intima di ognuna di noi. Avete capito bene, era proprio una vagina che rivendicava l'urgenza, la sua voglia ed il bisogno del godere fine a se stesso. Nel farlo si lamentava del cervello che, spesso condizionato da sovrastrutture, imbeccato da perbenismo, legato a codici bigotti, spesso depriva e vieta ogni slancio volto al piacere puro. È stato veramente esilarante. Appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al suo declinare stanco e lascia la tua luce in me. Allora, tutte le performance sono state presentate da Luchi Massa di Fuori Campo, che è una delle ideatrici e delle realizzatrici del corso di teatro. Ti incrociano i pensieri, i desideri scivolano. Ma stanno continuando ad arrivare messaggi, non faccio in tempo a leggerli. Allora facciamo così, adesso ascoltiamo insieme un altro brano di Gini Russo dal titolo Mango Papaya, e io nel frattempo che va la canzone vado a vedere che fine ha fatto il sito e leggerò i messaggi. Allora, Gini Russo con Mango Papaya. Questa dieta è l'ideale, cocktail di frutta e gran vitalità, grintosa ed allegra, l'estate mia sarà. Amo la tresca che mi imprigionerà, con lancio industriale del frutto tropicale, mango, papaya, ananas, e quando è sera non sento lo stress, kiwi, mamaya, maracuja, in discoteca mi sento una star, mango, papaya, cashew, devo evitare l'esotico rumba. Edulcorante nel caffè, me ne andrò in vacanza ai confini del Perù, ballerò la rumba al tantan della tribù, stupirà la notte alle mie erotiche virtù. Allora, per quanto riguarda l'accesso alla nostra trasmissione tramite internet, stanno provvedendo le ragazze a vedere che è successo, speriamo di risolvere il problema. Ho letto i messaggi, allora uno dice: "Hola ragazze, che bello essere ancora insieme, sono contenta di risentirvi, personalmente mi siete mancate, un fortissimo abbraccio per voi e per la mia dolce PCP, un bacio tenero, la spagnola." Ok, grazie. Poi quell'altro dice: "Che ti sei offesa? Non volevo fare polemica sull'espressione separatista, ma volevo sapere rispetto a cosa vi definite tale. Ciao, una neo ascoltatrice." No, assolutamente, io non mi sono offesa. Dico semplicemente che il modo più semplice per spiegarti che cosa vuol dire essere separatiste è che è dire che noi scegliamo come referenti altre donne. E poi, per farti capire un attimo qual è la nostra situazione che viviamo giornalmente, ti volevo mettere al corrente di una cosa che è successa proprio in occasione della Tre Giorni. Una cosa molto spiacevole, perché lo spettacolo della Dall'Ovo meritava davvero di essere visto e siamo state contente che Eleonora abbia accettato di rappresentarlo da noi. Incredibilmente però la stessa politica politica di censura che così bene ha raccontato nel suo spettacolo è stata riproposta contro di noi e contro lo spettacolo di Eleonora, e proprio all'interno della Casa Internazionale delle Donne. Già, perché nel pubblicizzare la serata allestita in occasione della Notte Bianca, all'interno della quale c'era questo spettacolo, c'è stata una casuale omissione da parte di una parte del titolo dove si faceva esplicito riferimento al mondo lesbico. Peccato che la cultura patriarcale abbia affondato le sue radici anche dove pensavamo di essere, chissà, forse un po' più protette. Chiaramente abbiamo avanzato le nostre proteste alla Casa Internazionale della Donna, e anche Eleonora Dall'Ovo ha provveduto ad inoltrare le proprie lamentele e le proprie rimostranze. Infatti, senti che cosa scrive, sentite che cosa scrive. Sabato 18 settembre 2004 a Roma, tra gli innumerevoli appuntamenti della Notte Bianca, si è svolta presso la Casa Internazionale delle Donne l'iniziativa La Notte di Pandora, mille e una notte per non prendersi sul serio. L'iniziativa vedeva al suo interno una serie di ironiche performance al femminile, e tra queste era calendarizzato uno spettacolo a tematica lesbica, Sogno di una notte d'estate con intermezzo lesbico. A proporre la rappresentazione alla Casa Internazionale delle Donne era stato il coordinamento Lesbiche Romane. Purtroppo, nella pubblicizzazione di questo spettacolo, dai pieghevoli distribuiti dal Comune di Roma ai quotidiani, al sito web ufficiale, la Casa Internazionale delle Donne ha intenzionalmente omesso la parola lesbico, l'ha censurata. Perché? La motivazione addotta dall'ufficio stampa della Casa Internazionale delle Donne è stato modificato il titolo perché in tal modo non avrebbe attirato uomini morbosamente incuriositi. Né il CLR né tantomeno l'autrice dello spettacolo sono state informate di questa arbitraria decisione. Si tratta palesemente di un atto di censura. Siamo di fronte ad una violazione dell'articolo 21 della Costituzione italiana, che cita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Non solo non è stato rispettato il diritto dell'autrice di manifestare il proprio pensiero, ma si è anche leso il diritto del pubblico ad essere informato circa il contenuto di uno spettacolo che rappresenta, come si è dovuto ancora una volta constatare, una realtà discriminata e tenuta ai margini. Con dispiacere, l'autrice Eleonora Dall'Ovo. Inutile dire che anche per noi questo episodio è stato molto, molto sgradevole, e anche noi abbiamo scritto una lettera indirizzando al Presidente, abbia chiarito un pochettino perché noi rivendichiamo così tanto il nostro essere, il nostro sentire, il nostro, abbiamo relazioni di vario genere. Ve ne leggo adesso alcuni passaggi. Abbiamo assistito impotenti e sgomente alla recita di un copione assai diverso da quello concordato. È forse ovvio ribadire che il nostro sentire oggi è di rabbia e di denuncia, proprio come i contenuti dello spettacolo di Eleonora Dall'Ovo. Siamo viste come una minaccia dell'ordine dato, e quindi come soggetti da occultare o da esibire solo se resi compatibili con la morale del sistema. Ma veniamo ai fatti. È stata operata una evidente censura, poco importa se consapevole o inconscia, nel momento in cui qualcuno ha deciso, con superficialità, di cancellare una parte del titolo dello spettacolo facendo sparire le parole intermezzo lesbico. La cultura patriarcale dominante è tale anche perché introiettata in modo più o meno sentito dai soggetti oppressi che l'agiscono senza porsi troppe domande. Non a caso l'autrice della censura si è giustificata dicendo di averlo fatto per tutelarci, per evitare che venissero allo spettacolo troppi maschi spinti da morbosa curiosità. Esattamente come il pensiero maschile dominante produce l'oppressione delle donne anche con il loro consenso, convincendole che certe azioni sono convenienti, perché presuppongono a monte una scelta fatta per il loro bene, parimenti l'omofobia introiettata agisce in modo potente e silente. È bene che le donne lesbiche siano sottratte all'occhio voyeuristico del maschio, che si suppone riuscirebbe senz'altro a strumentalizzare in senso autoerotico anche i contenuti della cultura lesbica. Madonna, infinita potenza maschile. Beh, stavolta l'episodio è francamente clamoroso. Chiediamo pertanto al più presto che si tenga un incontro chiarificatore. Firmato il coordinamento lesbiche romane. E questa è la sequenza degli avvenimenti, vi illustreremo gli sviluppi, sempre che ce ne siano, più avanti. Per ora io spero che questo spiacevole incidente abbia chiarito un pochettino perché noi rivendichiamo così tanto il nostro essere, il nostro sentire, il nostro agire, difendendolo con i denti e arrabbiandoci ogni qualvolta qualcuno cerca di affondarci. Spero di essere stata abbastanza chiara per la nuova ascoltatrice. Comunque non è la prima che ci chiede conto del nostro separatismo, quindi proporrò alle altre ragazze del gruppo del coordinamento lesbiche romane magari di allestire una trasmissione al riguardo. Per il momento io direi di ascoltarci un'altra canzone di Giuni Russo, ed è il nostro modo di salutarla, perché il titolo di questa canzone si intitola Good Goodbye, e quindi goodbye anche a te, Giuni. La musica leggera oggi nelle classifiche di... le ragazze qui della radio mi hanno dato delle indicazioni, io spero di riuscire a spiegarvi perché non si sente via internet. Allora, pare che probabilmente si debba cambiare un indirizzo sul programma di Winamp. Allora, io provo a dirvelo così come me l'hanno spiegato. Comunque prometto che manderemo noi un'email a tutte le ascoltatrici con magari delle indicazioni un pochettino più dettagliate. Allora, aprite il programma Winamp, andate su Play, andate su Location, come è scritto. Allora, aspetta che adesso ci arrivo. Un attimo, eccolo qua. Si apre una finestra dove dovete digitare questo indirizzo http://radio.uk1.indimedia.org/8100/ondarossa.mp3. Sembra veramente un messaggio in codice, giuro che non lo è. Allora, per il momento lasciamo questa situazione abbastanza incomprensibile così come lo è per me. Prometto che lo invierò a tutte, sia tramite cellulare sia tramite email. Allora, intanto io vi ricordo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Allora, quella che state ascoltando sempre in sottofondo è la musica di Giuni Russo, la voce di Giuni Russo, e noi vogliamo leggervi un articolo tratto dal Messaggero del 15 settembre che ci è sembrato molto bello. Allora, ve lo leggo. È morta nella notte tra lunedì e martedì nella sua abitazione milanese la cantante Giuni Russo. L'artista palermitana aveva compiuto 53 anni lo scorso 10 settembre e da 5 combatteva contro il tumore. Strana e sì sfortunata la carriera della Russo, dotata di voce elegante e potente che, forse proprio per il grande successo ottenuto nell'estate 82 con il brano Un'estate al mare, mai più ottenne i riconoscimenti ampiamente che avrebbe dovuto meritare. Nonostante fosse stata scoperta da Caterina Caselli e musicalmente dal conterraneo Franco Battiato. Gli scontri con l'ottusità discografica cominciarono da quando, giovanissima, dopo aver lasciato Palermo, approdò a Milano cercando di far valere i seri studi musicali compiuti, una solida passione per la musica lirica e jazz, soprattutto quella sua voglia di indagare sui diversi livelli e le etnie multiforme della musicalità nella sua interezza. Come Giusy Romeo, vinse il concorso Voci Nuove di Castrocaro nel 67, ma il debutto vero e proprio ebbe luogo nel 76 con il duo formato insieme a Maria Antonietta Sisini, sua compagna di lavoro e di vita, al suo fianco fin quando non è spirata. Dunque, l'album prodotto da Battiato e dal titolo scandaloso per quei tempi era Love is Women, permeato di atmosfere jazz, ma troppo avanti forse con i tempi che correvano. Gli album di Giuni Russo sono Vox dell'83, Mediterranea nell'84, Giuni dell'86, Allo Album dell'87, A casa di Ida Rubstein delizioso, Pastiche datato dell'88. Soprattutto questo qui, Pastiche, conteneva arie di Donizetti, Bellini, Verdi, e poi ce n'è stato un altro di album che si intitolava Napoli che canta. Quelle atmosfere popolari echeggiarono tutte nel brano che poi dette anche il nome all'album, Morirò d'amore. Che venne presentato 2 anni fa a Sanremo ed è stata una edizione da brividi quella, perché si sentiva e si vedeva che Giuni Russo stava male e siccome era una canzone bellissima, noi decidiamo di chiudere questa nostra prima trasmissione di rientro con la voce di Giuni Russo, appunto, con il brano Morirò d'amore. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on. Oddio, oddio, oddio, non dovevo partire la sigla subito, dovevo aspettare un attimo, ho levato la pausa prima del tempo. Allora io rubo ancora un paio di minuti per ringraziare tutte coloro che ci hanno mandato messaggi e che continuano a mandarli. Vi ricordo che tutti i messaggi che ci arrivano verranno poi pubblicati sul nostro sito, che è www.clrbp.it. sul quale potete anche trovare tutte le informazioni rispetto al nostro gruppo, la politica che facciamo, chi siamo, dove andiamo, tre denari, come diceva Troisi. E niente, cos'altro dirvi? Sono stata contenta di essere venuta qui questa sera, forse perché la ripresa delle nostre trasmissioni mi fa sentire molto più vicina a tutte le donne che altrimenti non avrebbero modo né di ascoltare né di viversi determinate situazioni. Sono stata oggi in modo particolare contenta perché nel pomeriggio sono state liberate le due Simona. Che altro dirvi? Io vi ricordo che la replica di questa trasmissione andrà in onda martedì prossimo. E niente, un ben ritrovate veramente a tutte quante e a martedì prossimo. Un grande abbraccio dal coordinamento Lesbiche Romane. Ciao.